Ancora una volta è soprattutto la stanchezza che mi porta a questa nuova diretta e come le altre volte sono ancora da solo, sono sempre K e l'altro K si è perso nei meandri della stanchezza, dell'influenza, sperando in tamponi negativi e della distanza. E stranamente in questo momento io K e l'altro K siamo anche molto vicini geograficamente, eppure siamo nella stessa città questa notte, eppure non siamo insieme, eppure non stiamo facendo questa scorribanda radiofonica estemporanea insieme. Ed è una cosa quasi strana, anche se in realtà le strade della stanchezza in questo senso hanno percorsi molteplici e tra l'altro io non sono nella mia città, non sono a casa mia, non ho la scheda audio, quindi non ho neanche un ritorno in cuffia della mia voce, vedo solo la linea che da verde passa a giallo del microfono, controllo l'audio delle altre fonti sonore, quello invece lo riesco anche a sentire in cuffia. Ma non sento la mia voce, per cui se qualcuno mi sta ascoltando, cosa che non è neanche così scontata, se qualcuno mi sta ascoltando può farmi un cenno tramite Telegram, se è nel gruppo privato Telegram o tramite il profilo Mastodon, se si sente, se funziona questa voce, se l'audio non è troppo disturbato, se non ci sono troppi rumori strani in sottofondo. E se anche voi siete stanchi, soprattutto in questo periodo, in questa notte, dicevo che anche questa puntata, poi si possono chiamare puntate delle trasmissioni estemporanee, che non si sa quando vengono fuori, chissà, però anche in questa estemporanea radiofonia, l'origine è la stanchezza. Dicevo, sono in una casa non mia e sto saltando una serata che poteva essere bella, interessante, probabilmente anche molto lunga e forse, anzi, senza forse, anche molto alcolica, perché sono stanco, perché quando si trattava di dire ok, dai, usciamo, io ho detto ma i miei occhi si stanno chiudendo e quindi ho detto ma magari solo una tisana, magari andare a dormire presto, che domani mi devo comunque svegliare presto, è una giornata di lavoro in movimento che mi aspetta. E quindi è sempre un po' questo ragionamento, questo girare intorno a questa stanchezza, anche se in realtà, oltre alla stanchezza, mi piacerebbe forse parlare di forse percezioni apocalittiche, quindi anche in questa occasione ragionare sul lato distopico della stanchezza o sul lato stanco della distopia che ci ritroviamo a vivere in qualche modo da un anno e mezzo, ormai due, a questa parte. In realtà forse è proprio anche a causa della stanchezza, forse per il fatto che sto cercando in questi giorni di lavorare con le parole, quindi il mio cervello si concentra sull'aspetto più lavorativo e quindi sul mettere una dopo l'altra delle parole che abbiano un senso, e non è sempre facile, che ecco, è un po' per questo che in realtà mi trovo a pensare che questa forse sarebbe più una serata da musica e da poche parole e forse un po' avrebbe senso fare così. Ricordo solamente per chi per sbaglio avesse cliccato sul link e stesse ascoltando queste distopiche stanchezze, che potete contattarmi al profilo Mastodon chiocciolastanchediste@nebbia.fail. E poi c'è anche un canale Telegram che per il momento rimane ancora privato, in realtà, un canale su cui pubblico, come poi sul profilo Mastodon, i link alle dirette per chi volesse ascoltare. magari nei prossimi giorni o nelle prossime occasioni anche il canale Telegram verrà aperto. Però per adesso, come era un po' il progetto all'origine, si tratta di conversazioni, quelle che dovevano essere conversazioni, che in realtà si rivelano monologhi, ahimè, e ai voi, per me, cioè nel senso, ahimè, per voi, o viceversa, insomma. Un dialogo è sicuramente più interessante, oddio, ma magari neanche sempre, in realtà, però, insomma, avere più voci rende le idee più varie, questo sicuramente è una ricchezza, e in questo caso l'aspetto monologico è un po' una pecca. Comunque dicevo che forse proprio per questo arrotolarsi di parole nella mia testa, questa stanchezza, forse ha più senso lasciare un po' più di spazio alla musica, tanto sto facendo tutto così, un po' in incognito, appoggiandomi qua e là e senza particolari appoggi radiofonici, stazioni, diritti e tutto l'armamentario del copyright che ci viene appresso. Quindi intanto butto su un po' di musica e poi dopo magari se qualche persona si connette, se qualche persona inizia ad ascoltare può scrivermi qualche riga sia su Mastodon sia sul canale Telegram, in realtà no, insomma chi ha il mio contatto Telegram può scrivermi, per cui pensate piuttosto a Mastodon se non avete il contatto Telegram, poi al contatto Telegram ci penseremo un po' più avanti, ma ho già parlato troppo di questo apparato digitale, quando in realtà la parte più importante è quella delle chiacchiere, delle stanchezze condivise e di un po' di buona, bella musica. Ecco, dicevo che la musica forse era meglio che delle parole che si ingarbugliavano tra di loro alla ricerca di una parvenza di senso al di là della stanchezza. E tra l'altro qualcuno mi stava facendo notare, qualcuno che ascolta mi stava facendo notare, dice, ma chi non può interagire con Mastodon, non può interagire con Telegram, che tra l'altro il canale Telegram in realtà non è propriamente fatto per le interazioni, almeno in questo momento dici come può interagire? In questo momento non saprei, devo essere sincero, proprio perché queste distopiche stanchezze nascono come un dialogo all'origine che poi in realtà si trasforma in monologo per necessità, visto che, come dicevo prima, io K manco dell'altro socio K che dovrebbe fare queste conversazioni con me, almeno cominciarle per poi aprirle ai contributi di chi ti ascolta. Non lo so, siccome tutto questo è cominciato da poco, comincia come esperimento, comincia come conversazione intima che si apre ad altre orecchie e soprattutto comincia in maniera del tutto estemporanea. Un po' clandestina, un po' nascosta, sicuramente anonima, e quindi non lo so in realtà se ci sono, se riesco a trovare il modo di avere altre possibilità di entrare in contatto con queste dirette. E probabilmente aprirò, sì, mi dicevo, aprirò il canale Telegram che adesso rimane un canale privato, così sarà possibile ricevere notifiche lì e poi eventualmente, tanto Telegram non so benissimo come funzioni, cercherò di capire se riesco ad accrocchiare possibilità di commentare o di inviare messaggi in qualche modo. Dicevo, questo episodio estemporaneo di distopiche stanchezze nasce proprio da una stanchezza che mi fa trovare adesso in una stanza non mia, in una città non mia, mentre l'amico che mi ospita è uscito per fare una lunga serata, probabilmente una serata che finirà verso mattina. E serate di cui io forse faccio un po' fatica a avere voglia, nonostante sia una cosa che ho fatto per tanti anni. E quindi mi sto immaginando comunque per quelle due persone che mi stanno ascoltando in questo momento, mi sto anche immaginando una città, che è una città grande, in cui in questo momento tante persone si stanno spostando da un luogo all'altro per fare queste serate, quindi passare da una cena a una bevuta, da una bevuta a un concerto, da un concerto a una serata di musica, DJ e ballare e continuare a bere. E è una cosa che non faccio da parecchio io. E un po' mi viene da farmi delle domande sull'età, sul tempo che passa. In realtà sto guardando OBS Studio che mi dice che il tasso di fotogrammi persi. La cosa interessante è che io non sto mandando segnale video, quindi in realtà i fotogrammi persi sono qualcosa di intenzionale, ecco. Comunque stanno per arrivare al migliaio. E mi chiedeva, ecco, se in parte ha a che fare col passare degli anni, che sono comunque una percezione difficile da non tanto da accettare, ma quanto da metabolizzare, oppure se ha a che fare anche con la stanchezza più vasta di cui si parla, di cui parlavo l'ultima volta e di cui si parla spesso in giro sulle reti sociali, ma anche tra amici, eccetera. Quindi questo senso di spossatezza, di mancanza di energie, di sfinimento che è dato sicuramente anche in parte dalla pandemia, quindi da quest'ultimo anno e mezzo, ormai due, che abbiamo vissuto in modo strano, con una botta d'ansia sulla testa, con questo senso di incommensurabile, di difficile da gestire, ma allo stesso tempo anche di sfinente da un punto di vista emotivo, relazionale, lavorativo anche. E quindi anche se questa forma di stanchezza, se questa, intanto io digito, probabilmente voi sentirete i tasti, perché proprio a proposito di stanchezze, a proposito di fare notte, di arrivare a mattino, che è una cosa che ho amato fare per anni, per divertimento, per lavoro, per vari motivi, insomma, è una cosa che anche per studiare o per semplicemente stare svegli a leggere o vagare per la città. La notte è qualcosa che ho sempre amato, che ho sempre vissuto, e da un po' di tempo a questa parte in realtà mi scopro stanco, quindi mi scopro con la necessità di andare a dormire presto, con l'occhio, che poi credo sia anche molto una questione mentale, per cui sentire che. Come dire, mi stanno ricevendo messaggi di errore probabilmente. Infatti si è interrotto lo streaming. Dovrebbe essere ripartito il segnale. È qualcosa, se è bloccato qualcosa. La diretta era saltata, non c'era più flusso audio, quindi probabilmente avete perso dei pezzetti qua e là. Beh, io nel frattempo ho continuato con il mio monologo. Dicevo, sì, ecco, io probabilmente avete perso un minuto o due dei miei deliri. Comunque, dicevo, sì, questo vivere la notte che è sempre stata una realtà per me, che invece negli ultimi tempi è diventato qualcosa di non tanto da evitare, perché non è da evitare, ma è semplicemente che non si riesce ad affrontare proprio per una questione di stanchezza, quindi questo senso che sicuramente è anche una componente psicologica molto forte, che se non si va a dormire presto, il giorno dopo sarà una catastrofe. E spesso in realtà è così, poi dopo un certo momento. E però niente, visto che io questa sera mi sto ingarbugliando con le parole, sono appunto stanco, ma soprattutto questo monologo vorrebbe piuttosto essere un dialogo, vorrebbe piuttosto essere una conversazione, perché in fondo io i pensieri della mia testa un po' li conosco, e non è che non siano particolarmente interessanti, ma sicuramente è limitante esporre solo quello che gira nella mia testa. Senza nessuna influenza esterna, senza nessuna contaminazione con altri pensieri. E quindi, siccome stavo ragionando di come la notte è stata un elemento importante, c'è sicuramente chi ha delle parole migliori delle mie, soprattutto meno ingarbugliate, più chiare, forse anche più evocative, proprio per raccontarla questa notte. Marco ha una webcam aperta dove batte sempre il sole. Si vede la spiaggia, si vedono le onde, si vede una donna che si allontana su un gommone. Lui aspetta sempre il momento di partire, arrivare un giorno, incorniciato da un'alba sublime. Carlo ha un ombrellino piantato in mezzo al petto. Ho il cuore in ombra, dice. Ho il cuore gelido. Toccalo, dice. Avvolgilo, tienilo stretto. Morendo di freddo. Anna è seduta appena un po' più in là, a contare le volte in cui la vita l'ha lasciata da sola dentro un bar. Non ha consegne, non ha progetti, non ha buoni da scalare. Poi guarda l'ora e decide che ha fame. amico è caduto sul più bello, scivolato all'improvviso una banale svolta del destino. Ora vive con sua sorella, la sera siede fuori sui gradini. La vita si è rotta, dammi una moneta, grida Elena e agli altri vicini. E io aspetto qui, dove la vista rassicura. Ho con me i tuoi fiori, le tue accorte raccomandazioni, e mi affido alla notte che confonde le tracce, che nasconde i rifiuti, che ritorna costante, che ritorna costante, che ritorna costante. Che ritorna costante, che ritorna costante, prendere dall'ossessione del denaro, Leo dal fascino osceno del caso, Stefano ha bisogno di attenzioni, Laura di privazioni, Gianni vive a Pechino, Laura serve ai tavoli in un ristorante di Torino, Andrea prende una droga che fa dimenticare, Sergio ha una malattia che lo fa addormentare. Mimmo è morto. E io? Io aspetto qui. E mi affido alla notte che confonde le tracce, nasconde i rifiuti, che ritorna costante, ecco. Il mio affidarmi alla notte negli ultimi tempi è soprattutto veramente un affidarmi al sonno, e forse era stato già una quindicina di anni fa che leggevo questa massima, questa frase che diceva che il sonno era il nuovo sesso, quindi che gli esseri umani pensavano molto più spesso a dormire che a fare sesso, e come qualcosa di sintomatico di questo capitalismo neoliberista in cui siamo ingabbiati, che detta i ritmi delle nostre società. Però di sicuro è vero, capita che la prima cosa che si pensa quando si sveglia al mattino sia che non si vede l'ora di tornare sotto le coperte la sera, è come se la giornata fosse solo una parentesi obbligatoria tra due fasi in cui, cioè sì, tra due fasi ricorrenti in cui la cosa più importante è il dimenticarsi di sé da un lato, e l'altra è il rifugiarsi nell'onirico, per quanto anche l'onirico a volte possa essere spaventevole. E ora in questo momento non so se l'altro K stia ascoltando, so che ha visto il link alla diretta a cui non sta partecipando, ma caro il mio K, se stai anche ascoltando puoi mandarmi un vocale se non vuoi entrare in diretta in qualche modo, anche perché tecnicamente in questo momento non saprei come accrocchiarlo, ma se vuoi mettere un pezzetto dei tanti discorsi che abbiamo fatto negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, mandami un vocale e cerco di farlo passare in diretta per far diventare questa queste distopiche stanchezze più dialogiche, più conversazionali che monologiche. E quindi sì, dicevo del sonno, ma c'è anche un'altra cosa su cui mi sto interrogando in questo momento, cioè quella per circostanze puramente contingenti, no? Quindi quello dell'abitare spazi non propri, quello del ritrovarsi a cambiare luoghi, a cambiare pareti, a cambiare letti in cui si dorme spesso. E anche questo cosa comporta sulla percezione della quotidianità, cosa comporta sulla percezione del senso del sé, cosa comporta anche a livello di quello che per una persona può essere definito casa. E spesso si pensa che una cosa bella sia avere una casa così sparpagliata geograficamente, quindi sapere di potersi appoggiare da una parte all'altra, attraversare geografie, città, tempi, spazi, avere sempre un posto in cui che effettivamente è una cosa bellissima, è una cosa molto bella, è una cosa che dà anche senso al muoversi, e a ritrovarsi sulle distanze, sulle geografie diverse. Allo stesso tempo ha qualcosa di spaesante, qualcosa che lascia un po' con un senso di non sapere da che parte si è finiti, e quindi con un senso di non sapere bene dove si è, e forse in qualche modo il senso del non sapere bene dove si è influisce anche sul senso del non sapere bene perché e perché dove si è, del perché, del cosa si fa. E sicuramente questa frammentarietà geografica, vista anche la sottostante frammentarietà esistenziale che ci troviamo a vivere, sicuramente aggiunge un livello di difficoltà. Non so se ci sia una. Non credo che ci sia un'età limite per la sopravvivenza rispetto a certe all'essere così sparpagliato. Credo che ci si possa anche allenare a farne una caratteristica piuttosto costante del vivere, anche se non è sempre facile. E forse anche questo, da un punto di vista di consumo di energie mentali, di affaticamento, è come se l'esistere quotidiano, poi soprattutto in questo periodo, richiedesse già una quantità superiore di energie, per poter essere gestito. Ecco, se ci aggiungiamo un costante spostamento, un costante spaesamento, probabilmente le energie necessarie per gestire questo stare, anzi questo muoversi, sono ancora maggiori, e non è detto che in tutti i periodi della nostra vita ce li abbiamo. Allora io continuo a controllare i messaggi che ricevo, ma non ho nessun messaggio del mio socio K, che forse mi sta ascoltando, forse questa mia voce sta conciliando il suo sonno. E intanto io continuo a immaginare l'amico che mi ospita e tanti altri convergere verso punti nodali della vita notturna, delle città, di questa città in questo momento, ma anche di tante altre città sparpagliate dentro e fuori i confini, di questo paese. E magari se qualcuno in questo momento sta ascoltando questa mia voce, forse non è tanto un momento in cui la mia voce concilia un sonno, una stanchezza, quanto piuttosto un leggero accompagnamento in realtà porta verso una serata di movimento, di azione, di relazione sociale, cosa che per esempio dal momento in cui, dal momento che è anche un luogo in cui mi trovo io, ecco, non ci potrebbe probabilmente essere niente di più distante come percezione. Io, prima di uscire, l'amico che mi ospita mi ha lasciato accanto per l'intrattenimento, come se avesse paura che mi potessi annoiare qui in casa da solo, un paio di fumetti, uno di Paolo Bacillieri, Fonks, e un altro di Jim Woodring, insieme a un altro bellissimo libro che raccoglie, probabilmente sentite scricchiolare anche lo sgabello su cui sono seduto, c'è un altro bellissimo libro che raccoglie la propaganda sovietica contro il consumo e l'abuso di alcol per i cittadini sovietici. Non so, forse questo era anche un messaggio, una sorta di consiglio, no? In realtà siamo molto morigerati dopo tutto, quantomeno lo siamo stati fino al momento in cui l'amico è stato in casa. Io sono passato direttamente alle tisane che conciliano il sonno in qualche modo e che forse mi fanno pensare anche che, tra l'altro, visto che come tutte le radio clandestine, un po' estemporanee, improvvisate su frequenze digitali disponibili, occupate come zone temporaneamente autonome, che già autonome in realtà sono, ci sono, ecco appunto, mi sono anche perso, e questa è la stanchezza, perso, sono tutti streaming che saltava, streaming che riprendeva, quindi anche per non esagerare con la lunghezza, anche perché qualcuno mi chiede: ma quanto vai avanti? Ho detto: ma a me in realtà la radio piacerebbe farla anche per tutta la notte, ma non credo sia il caso. Però proprio pensando a tutte quelle persone che probabilmente non mi stanno ascoltando, ma in realtà va benissimo così, fa parte del senso di tutto ciò che sto facendo con queste stanchezze distopiche. E proprio pensando alle persone che in realtà in questo momento si stanno muovendo da una parte all'altra di questa e di tante altre città per vedere amici, per andare a ballare, per assistere a dei concerti o semplicemente per riprendersi un pezzetto di vita e di tempo liberato anche dal consumo, oltre che dal lavoro, ho pensato che volevo mettere questa bellissima canzone di un, credo sia un duo, un gruppettino berlinese, che è all'opposto del conciliare il sonno, quindi dello spingere alla stanchezza o del cercare di recuperare la stanchezza, quella stanchezza di cui si è parlato questa e altre volte. E quindi chiudo così, con questo pezzetto che invece è pieno di energia, pieno di voglia di ballare, di saltare, anche pieno di critica sociale a suo modo. E così, che magari sia di buon auspicio, sia anche una sorta di gesto musicale apotropaico per lasciarsi ogni tanto alle spalle la stanchezza, questa stanchezza, e ritrovarsi a fare quattro salti, divertirsi, avere una testa un po' più leggera, un po' più scanzonata. Queste estemporanee frequenze di distopiche stanchezze quindi si chiudono qua con l'ultimo pezzetto. Vi ricordo sempre che esiste un canale Telegram che però è ancora privato, che si chiama Distopiche Stanchezze, che prima o poi aprirò, e però c'è un profilo Mastodon che è Stanche Diste su nebbia.fail, e lì, anche lì trovate il link alle dirette, e lì potete eventualmente anche commentare e mandare dei messaggi. A me non resta che darvi la buonanotte e tuffarmi nei fumetti che il mio amico mi ha lasciato da leggere, sperando che poi la stanchezza non sia troppo pesante domani mattina. Buonanotte. vier Leuten Sex. Verdächtig. Und schickst das Video deinem Ex. Verdächtig. Ihr seid alle nicht normal. Verdächtig. Ihr seid alle radikal. Fahr den MC-Catcher hoch, mach das Licht, Mikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staatstrojaner ein. Weg die Exit-Maus bei Tor, ihr wollt doch alle Richter sein. Fahr den MC-Catcher hoch, mach das Licht, Mikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staatstrojaner ein. Weg die Exit-Maus bei Tor, ihr wollt doch alle Richter sein. Verdächtig. 20 Sticker auf dem Laptop. Verdächtig.